Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Meris a voi tutti in ascolto e buonasera a Stefano Corso che è in linea con noi. Buonasera professor Corso. Buonasera, grazie. Stefano Corso è professore al Politecnico di Milano e soprattutto direttore dell'osservatorio Smart Working. E così smart worker, cioè lavoratore intelligente che si qualifica il lavoratore che ha una forte flessibilità per quanto riguarda gli orari e i luoghi in cui lavora. Quello degli smart worker è un fenomeno ancora molto limitato in Italia, siamo intorno al 5% dei lavoratori, ma che è comunque in crescita. E ieri abbiamo visto che se questo modo di lavorare fosse adottato più largamente, e le possibilità certo non mancano, ci sarebbero notevoli benefici, prima di tutto in termini di produttività delle aziende, ma poi anche in termini di riduzione del traffico, delle emissioni e così via. Stasera allora cercheremo di capire un po' meglio che cosa serve, insomma come le aziende devono attrezzarsi per cogliere questa che deve essere considerata una opportunità. E come ieri però partiamo dalle parole di un architetto, un archistar ormai, Jean Nouvel, che ha progettato una mostra in occasione del Salone del Mobile che aveva come tema l'ufficio da abitare, mostra che si proponeva di raccontare come sta cambiando e come possono cambiare i luoghi di lavoro in fatto di design e di arredamento, proprio anche in risposta a queste nuove figure, tipologie di lavoratori. Sentiamo. Potremmo cominciare con quelle persone che lavorano in ufficio anche se non si trovano in ufficio e che scoprono che fare lavoro di ufficio fuori dall'ufficio può essere piacevole. E che i mobili e i materiali che vi si ritrovano non sono per forza gli stessi, che sono più diversificati e in accordo con i luoghi, che si contestualizzano. Si parlerà anche di coloro che lavorano a casa propria, con molto materiale da ufficio, e questo materiale deve poter stare lì in relazione, in contrasto, in armonia, o più precisamente come presenza tecnica o come presenza dinamica, nello spazio in cui si abita. E questo è un vero mercato. E questo è un vero mercato, Corso. Conclude dopo, diciamo, una riflessione altamente filosofica, Jean Nouvel chiude in modo molto pragmatico. Sta nascendo un nuovo mercato del lavoro. Ma guardi, penso proprio di sì, anzi, devo dire che ne sono convinto. E il mercato che, diciamo, degli arredi, della riconfigurazione degli spazi è davvero soltanto la punta dell'iceberg. Certo. C'è un mercato molto, molto più grande, perché stiamo parlando di un fenomeno di riprogettazione completa dei sistemi di organizzazione del lavoro che ha molte altre leve, quindi certamente, diciamo, la riorganizzazione degli spazi degli uffici, la riorganizzazione degli spazi domestici aprirà un nuovo mercato, però nel settore del design, ma poi ci sono per esempio gli strumenti che consentono di lavorare in mobilità e quello è un mercato forse anche un po' più ampio. È un grandissimo mercato, oggi il nostro spazio di lavoro non è soltanto fisico ma è anche e soprattutto virtuale, quindi le tecnologie, dalle tecnologie del mobile, qualche esempio, del cloud, cosa serve? Serve sicuramente, diciamo, il kit perfetto del smart worker è certamente un kit di device mobili che gli consentano di essere in grado di interfacciarsi con i propri strumenti, con i propri colleghi ovunque, ma poi è anche un kit di strumenti software di collaborazione, di social networking e di applicazioni che siano disponibili nella rete ovunque, il cosiddetto cloud computing. Oggi è possibile effettivamente avere i propri mezzi di produzione, quelli che diciamo le organizzazioni tradizionali del lavoro collocavano sulla catena di montaggio, noi oggi possiamo averle ovunque e poterle fruire in modi diversificati. Certo, diciamo che una macchina a controllo numerico, persino una macchina a controllo numerico, si può sicuramente controllare anche via internet, no? Che è una roba da oggi da casa, ovunque sono, anche se in un altro continente. Quindi stiamo parlando di un operaio in questo caso, non necessariamente di un dirigente d'azienda che potrebbe fare del telelavoro. Parliamo addirittura di operatori, chiaramente, che saranno sempre più specializzati, ma che fanno lavori operativi di maintenance. Comunque, diciamo, uno degli ingredienti fondamentali è che uno può lavorare fuori dall'ufficio, dal classico ufficio, ma non deve perdere il contatto con l'ufficio, no? Quindi molti strumenti sono indirizzati a questo. Certo, è l'essenza della virtualità, cioè ci sono presente, posso contribuire quando serve, in qualunque momento. Quindi questo è un grandissimo, poi i superpoteri che abbiamo oggi grazie alla rivoluzione digitale. Però le imprese, se non riorganizzano il proprio modo di lavorare, non riescono a... E quello, questo secondo me è il vero nuovo mercato, cioè riorganizzare i processi di lavoro, non soltanto gli spazi, il nostro modo di essere anche manager, di gestire processi, di servire il cliente. Questa è sicuramente la vera rivoluzione. Ad esempio? Ecco, ad esempio le dico, gli orari di lavoro vanno ripensati completamente in funzione di quelle che sono le reali necessità. Quindi tutte quelle che sono le attività che richiedono una collaborazione interna o esterna possono essere collocate diversamente, quindi magari nella mia giornata di lavoro io devo iniziare collaborando con dei clienti che sono al di fuori della mia organizzazione, posso farlo meglio in modo digitale da casa. Posso avere poi dei momenti di relazione che richiedono la presenza fisica e quindi può essere opportuna la mia presenza fisica presso il cliente o presso un partner e poi quando serve tornare sul posto di lavoro per fare collaborazione. Tutti quelli che sono i processi aziendali delle diverse figure possono essere ripensate abbandonando dei pregiudizi. I pregiudizi sono quelli che la presenza fisica sia sempre necessaria a generare valore. Ecco, senta, ma che cosa temono i manager che non vogliono aprirsi a queste forme di lavoro a distanza o di lavoro appunto flessibile? Certo, bravo, è la principale barriera, sono proprio i manager, ha detto bene. Temono essenzialmente una perdita di controllo, questo è in gran parte un pregiudizio, ma a mio parere è legato più a una sensazione di propria incapacità a pianificare le attività. Una sorta di garanzia sostanzialmente, ti tengo gli occhi addosso. Sì, esatto, direi oggi tranquillizza un management incapace di gestire gli obiettivi. Invece quando siamo ben organizzati, abbiamo le nostre responsabilità e quindi ci siamo capiti sul che cosa occorre fare, non c'è bisogno di dare vincoli sul dove vada fatto, quando vada fatto, con che strumenti. Grazie Mariano Corso. Grazie a lei, a presto.